Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, vi siete ripresi dal cenone dell'ultimo dell'anno? Siete ancora in vacanza oppure siete a casa? State pensando magari di passare qualche giornata in giro in questa splendida Italia? Bene, io oggi vi darò un suggerimento di fare un itinerario molto particolare in un territorio che è ancora incontaminato, un territorio bellissimo da vedersi anche in questa stagione, sperando che non nevichi, ma anche con la neve potrebbe essere molto piacevole vedere questi paesaggi. Bene, io vi porto in Casentino, dove sicuramente si possono coniugare arte, natura, cibo e anche la genuinità della gente di questo territorio. Bene, il Casentino diciamo che confina con la Val Tiberina, che è quasi, diciamo, non dico che è la stessa cosa, però chi volesse anche così vedere altre cose artistiche sicuramente in Val Tiberina, nella zona di Sansepolcro, può trovare pane per i propri denti. Ma devo dire che poi il Casentino vuol dire anche foresta, vuol dire anche la foresta, vuol dire Camaldoli, vuol dire la Verna, quindi due posti, diciamo, anche di meditazione, due monasteri sicuramente da visitare, e credo che in questo periodo anche natalizio dell'ultimo dell'anno, quindi dell'inizio del 2009, siano molto molto interessanti. Allora cominciamo questo viaggio in questo, appunto, dicevo, splendido territorio, io lo ritengo tale. E cominciamo ad andare da Lorenzo Gambineri dell'Alimentari Casentino, perché con lui voglio così iniziare un po' a parlare dei prodotti che si possono trovare in questo territorio, i prodotti che magari lui ha in negozio. Buongiorno Gambineri. Buongiorno, buongiorno. Gambineri, ci dà una serie di prodotti locali, importanti, che lei vende, il fagiolo o d'altro, ce le può un po' descrivere? Dunque, di importante innanzitutto, il fagiolo di Gargano, la patata rossa di Cetica, ci sono pecorini, ma insomma nello specifico, parlando di fagiolo di Gargano, che è un prodotto abbastanza raro perché è coltivato solo da poche persone anziane che sono rimaste attaccate al loro territorio, quindi c'è una produzione piccola, diciamo, siamo intorno ai 300 kg, 400 kg, non più. Questo è un fagiolo che poi cresce a un'altezza di 700-800 metri alle pendici del Prato Magno, ha poca produzione per natura, comunque è un fagiolo di grandissimo. Ecco, perché Gargano cos'è, un posto? Gargano è una piccola frazione del comune di Castel San Niccolò, provincia d'Arezzo, come ricordava lei, siamo incastrati nell'Appennino, al confine con la Romagna, provincia di Firenze, quindi proprio nell'Appennino classico toscano. Quindi questo poi è un borgo che vive proprio, diciamo, esclusivamente ormai della notorietà di questo fagiolo? Sì. Sicuramente ci sono rimaste poche persone, come dicevo prima, anziane, che si dedicano a questa cultura. Tra l'altro è un prodotto di un fagiolo di altissima qualità, perché ha pochissima buccia, quindi non dà areofagia, è molto delicato nel sapore. E quindi come viene utilizzato in cucina? C'è un piatto tradizionale casentinese che usa questo fagiolo? Sì, il piatto tradizionale nostro è il classico fagiolo alesso nel fiasco, fatto con l'aglio in camicia, l'olio extravergine, classico toscano. Comunque poi ci sono altri modi di mangiare il fagiolo, anche all'uccelletta condito col pomodoro, però diciamo il classico è il fagiolo bianco cotto al forno, possibilmente nel fiasco. Ecco Gambineri, può spiegare cosa significa cotto nel fiasco? Cioè, se può spiegare ai nostri radioascoltatori, cioè vuol dire che i fagioli vengono messi dentro un fiasco? Esatto, dentro un fiasco nudo, naturalmente non impagliato, perché va, certo, dentro il forno, fagioli, quindi acqua, in particolare questi fagioli non necessitano di ammollo, perché sono talmente privi di buccia, hanno una buccia sottilissima che l'ammollo non importa, vanno cotti dentro questo fiasco sempre con aglio in camicia, un po' di olio extravergine, io ci metto anche un po' di pepe e poi salati all'ultimo a fine cottura. Niente. Ecco. Volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che in Sorana, che è un altro posto molto famoso per i fagioli in provincia, che è diciamo nel comune di Pescia, e c'è un produttore che ha lanciato un tipo di vetro, una realtà moderna in luogo del fiasco, dove si possono cuocere direttamente questi fagioli, non più al forno, ma addirittura veramente sulla la fiamma piena, insomma, la fiamma anche del gas. Quindi sicuramente ci sono così metodi leggermente così che moderni che mantengono questa tradizione del fagiolo cotto al fiasco alla toscana. Gambineri, rimanga con noi. Ora sentiamo, abbiamo sentito il fagiolo di Gargano, ora sentiamo anche un altro prodotto importante, poi ne vedremo altri. Gambineri ha citato la patata di Cetica, vedremo anche questa, ma ora vediamo la castagna, perché sicuramente questa è zona di castagni, e sentiamo con il signor Pistolesi, che è referente del consorzio della farina di castagno, appunto del Pratomagno del Casentino. Buongiorno Pistolesi. Buongiorno a lei, signor Paolini, agli ascoltatori, buongiorno. Senta, ma le castagne hanno le annate migliori e le annate peggiori? Certamente, dipende molto anche dalla siccità estiva, quindi hanno una resa migliore quando chiaramente ci sono le piogge nel periodo di maturazione del frutto. E il 2008 è un'ottima annata oppure non è una grande annata? Il 2008 è ottima come qualità, non tanto di produzione, perché abbiamo appunto subito una siccità nel periodo fine agosto, primi di settembre, però la qualità della farina è eccezionale quest'anno, sì. Ecco, senta, come avviene? Cioè, un tempo avvenivano, cioè, diciamo che c'è una grande tradizione nel Casentino sulla castagna. Ci sono ancora questi vecchi essiccatoi dove si essiccano ancora le castagne oppure ci sono sistemi più moderni? No, noi abbiamo costituito appunto un consorzio nel mio comune, che io sono anche il sindaco del comune di Ottignano Raggiolo, e proprio in Raggiolo come amministrazione comunale abbiamo investito, abbiamo fatto secondo me un bel progetto, abbiamo recuperato anche un molino, quindi noi maciniamo, a questo punto siamo in grado di avere tutta la filiera di produzione della farina di castagne del Pratomagno nella sua fase totale, conclusiva, praticamente dal prodotto fresco noi produciamo la nostra farina nel metodo chiaramente tradizionale, quindi ancora esistono i seccatori che alcune persone, i soci del consorzio hanno recuperato nella montagna, e con questa tipologia diciamo di cooperazione stiamo facendo secondo noi un bel lavoro, perché da quest'anno il molino di Morino di Raggiolo è rientrato in produzione, di proprietà comunale, e produciamo questa farina tipica, perché la nostra farina è tipica nel fatto che noi adoperiamo la famosa rinfornatura, quindi un ulteriore passaggio di essiccazione. Cos'è? Ce lo spiega cos'è la rinfornatura? Esatto, dopo diciamo la fase normale della seccatura nei seccatoi della farina, nel paese di Raggiolo, che è tradizionalmente centenaria la tradizione, si sono disseminati i forni diciamo del pane, il classico forno per il pane. Quindi noi, dopo che abbiamo preso le castagne già secche dal seccatoio, le ripassiamo in questi forni per alcune 12-14 ore, quindi un'intera giornata, e togliamo con questo sistema un'ulteriore percentuale di umidità dal prodotto. Lei pensi che arriviamo a circa l'8-9% di umidità con questo ulteriore passaggio, e questo ci implica di avere un prodotto eccezionale come qualità, è un prodotto leggermente più scuro, più saporito, perché chiaramente togliendo l'umidità abbiamo le proprietà intrinseche diciamo migliorative del prodotto, e con questo ulteriore processo abbiamo un ulteriore guadagno, ed è, mi riferisco al contenimento del prodotto durante il periodo diciamo annuale. Il nostro prodotto, essendo più secco del normale, si mantiene molto per tutto l'anno. Noi praticamente l'anno dopo, nell'estate dell'anno dopo, adoperiamo la nostra farina che è incredibilmente, diciamo, genuina e valida anche dopo diversi mesi dalla macinatura del prodotto. La ringrazio Pistolesi, ringrazio Roberto Gambini, Lorenzo Gambineri dell'Alimentare Casentino e Pistolesi che è sindaco, lo apprendo ora, ma nonché referente del Consorzio della Farina di Castagne del Prato Magno e del Casentino. Il gastronauta. Continua il nostro viaggio in Casentino e dopo aver appreso le proprietà del fagiolo di Gargano e della farina di castagne del Casentino, bene, del Prato Magno, continuiamo e ora andiamo a scoprire un fatto molto particolare, direi originale. Bene, in Casentino si produce anche vino e ora andiamo a parlarne con Lorenzo Massard dell'azienda Le Rancole. Buongiorno signor Massard. Buongiorno, benvenuti in Casentino. Bene, siamo già in Casentino, abbiamo già viaggiato, quindi questa è un'altra tappa che stiamo facendo. Senta, ma... Allora si può bere un bicchiere di vino? Certo, possiamo bere un bicchiere di vino. Ma di solito in Casentino, cioè la produzione di vino, non esisteva fino a qualche anno fa. Cos'è successo, Massard? Diciamo che in Casentino si produceva vino agli inizi del secolo, diciamo 1910-20, per esempio la mia nonna aveva portato dei vini alla mostra di Londra nel 1911, poi nessuno più ha fatto vino e il primo vino che è ritornato in bottiglia è l'annata 2003. Quindi dopo tantissimi anni, insomma. Tantissimi anni. E in questi anni hanno dormito le vigne, sono state cosa è successo di queste vigne che esistevano? Cioè sono state distrutte, allora, poi sono state ricostruite oppure hanno continuato a sfornare uva che andava da altre parti? No, assolutamente, diciamo, non ci sono più le vecchie vigne, ci sono vigne impiantate grosso modo negli anni 70. Ho capito. Senta, la sua azienda dove è radicata quindi? La mia azienda è al sud del Casentino, è a Subiano, diciamo a 15-18 chilometri da Arezzo e da una ventina di chilometri da Bibbiena. Lei produce Sangiovese, se non erro, vero? Sì, io sono un integralista, nel senso solo Sangiovese, solo Canaiolo. Quindi, però per essere integralista sul Chianti le manca qualcosa, insomma. Le manca la Malvasia, il Trebbiano. No, io ce l'ho Malvasia e Trebbiano, ma non le utilizzo per il vino rosso, ma per il vinsanto. Ah, quindi lei ha la vinsantiera anche, quindi c'è una vecchia vinsantiera, immagino. Sì, c'ho una vecchia vinsantiera che poi ho integrato con, diciamo, dei nuovi caratelli, perché la produzione da piccola è diventata un po' più grande. Bene, rimango però con... ci sono in Casentino anche vini bianchi e ci sono anche Merlot, Anche Merlot. Lei ha dei Merlot, anche lei vitigni di Merlot oppure sono da altre parti? Sì, diciamo, io soltanto Sangiovese Canaiolo, ma in Casentino ci sono altri due imbottigliatori. Sì. Uno è il dottor Ceccarelli a Poppi, sì, che produce solo Merlot in purezza, mentre il terzo imbottigliatore sono i monaci camaldolesi, che loro producono Sangiovese, un po' di Merlot, e poi producono anche vino bianco in prevalenza Trebbiano. Ma io sono stato molte volte a Camaldoli, ma non ho mai visto il vino dei frati. Ma no, è più in basso, Diciamo è in località Soci. Continuiamo ad andare in giro per il Casentino e ora andiamo da uno dei personaggi, diciamo, di quelli che hanno trascinato i prodotti di quest'area, hanno fatto conoscere quest'area. Andiamo in macelleria, andiamo da Simone Fracassi. Buongiorno Simone. Ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, con Simone Fracassi non si può non parlare di un prodotto molto particolare, che è un prosciutto che amo molto, che è il prosciutto del Casentino. Allora, Simone, ci vuoi dare così le caratteristiche di questo prosciutto? Che differenza c'è tra il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele? Perché questo prosciutto del Casentino ha questo nome storico, cioè ogni tanto torna nei documenti, torna nei film, torna un po' ovunque. Perché è rappresentativo di quello che è il toscano, il nostro carattere, il nostro modo di essere, quindi abbastanza... Una volta si poteva definire sapido, abbastanza saporito, ecco, grintoso, ha un gusto persistente, ha un bel grasso roseo e una percentuale di grasso importante, quello che ti porta dolcezza rispetto alla parte magra, dove naturalmente il sale la potrebbe fare da padrone se non ci fosse il grasso. Ecco, senti, ma gli allevamenti di maiali ce ne sono nel Casentino? Beh, diciamo che noi ci siamo dati un bel disciplinare insieme a tutte le nostre istituzioni, dove bisogna rispettare l'allevamento allo stato brado, dove non abbiamo soia, non abbiamo OGM, non abbiamo antibiotici a crescita, dove soprattutto ogni ettaro ogni anno deve essere messo a riposo per rispettare anche il nostro habitat, per cui a livello numerico non ne abbiamo, ma a livello qualitativo senz'altro, e i nostri allevatori stanno facendo un buon lavoro a migliorarsi naturalmente tutti gli anni, perché come macellaio, come diciamo prosciuttaio potrei anche essere bravo, ma se non avessi una grande materia prima, capisci Davide, che è quella che fa la differenza. Ecco, ci dai anche così informazioni di altri prodotti tipici del Casentino, diciamo che passano attraverso la macelleria ovviamente? In macelleria in Casentino, così come un po' tutta la provincia d'Arezzo, non puoi far altro che chiedere la chianina, quella vera, marchio IGP, quella certificata e soprattutto marchiata a fuoco, e per chianina si intende la razza, non certamente solo la fiorentina, perché come ben sanno anche i nostri ascoltatori, solamente l'8% della bestia è fiorentina, tutto il resto sono bolliti, spezzatini e quant'altro ancora. Per cui ecco, la chianina è immancabile e naturalmente tutto quello che va dalla montagna alla collina alla bassa pianura, quindi dai fagioli di Garliano, dalla patata rossa di Cetica e naturalmente anche le patate comunque bianche coltivate dai 600 agli 800 ai 1000 metri di grandissima qualità, senza dimenticare il fondo valle con l'olio e qualche puntata di vino senz'altro. Ecco, vorrei ricordare che Simone Fracassi ogni anno organizza una festa, una specie di festival in cui diciamo che le produzioni locali sono tutte rappresentate. Vuoi ricordare la data, il periodo? Diciamo che andiamo su giugno, naturalmente possiamo variare in base alle esigenze che naturalmente possono avere i miei colleghi produttori, per cui si va dai primi di giugno, si alterna i primi di giugno o il primo weekend di giugno o l'ultimo weekend di giugno, si chiama capolavori a tavoli, ma è un modo per dire grazie un po' a tutti i nostri estimatori, è un modo per ritrovarsi, per confrontarsi e per stare bene a tavola senz'altro. Voglio tornare un momento da Massaro. Massar, lei oltre vino produce anche olio, vero? In realtà non lo produco io, lo produrrebbe mia moglie. Ah beh, insomma, diciamo che è sempre la famiglia che lo produce. Ecco, ma che cultivar c'è in Casentino? Noi principalmente facciamo moraiolo. Ecco, ma c'è una tradizione anche lì ancestrale, come diceva prima, sul vino, oppure diciamo che è un... No, diciamo... L'olio subisce le conseguenze di tutto il mondo, insomma di tutto il mondo italiano, che siamo all'età della pietra, si immagini allora. Certo. Torno a Simone Fracassi per chiedergli questo. Simone, diciamo che in Toscana è molto diffusa la finocchiona come salame. Sì. E nel Casentino continua questa tradizione o c'è una tradizione particolare sul salame? No, addirittura la finocchiona viene fatta soprattutto anche in Casentino, poi puoi trovare delle variazioni come è giusto che ci siano, ripeto, caratterialmente noi toscani il campanile, puoi trovare la sbriciolona sul fiorentino, quindi un taglio molto grande e servita, tagliata dopo qualche giorno di stagionatura, puoi trovare la finocchiona proprio un pochino più tirata, più stagionata, con alcuni mesi di stagionatura in Casentino, vuoi per tradizione, vuoi perché nel tempo la stagionatura viene fatta in maniera leggermente diversa per differenziarci e per tirare fuori appunto quel campanile. Ma non volevo dimenticare, perché qualche amico mi potrebbe anche magari farmelo notare, in Casentino si producono degli ottimi mieli, le farine macinate a pietra, sì, l'amico sì. Sgrifoni, tu conosci, sta facendo un grandissimo lavoro, e soprattutto siamo i maggiori produttori dell'albero di Natale. Ah, questo non lo sapevo, certo, le foreste... L'Italia, la maggior produzione dell'albero di Natale viene fatta in Casentino. Le foreste casentinesi. Volevo chiederti un'altra cosa, si dice sempre che del maiale non si butta via niente. C'è un qualcosa di particolare del maiale, appunto, diciamo, di secondi tagli, di quelli che non sono più importanti, che viene prodotto in Casentino, tipo il... Certamente il sambudello, che è una salsiccia con il recupero delle lingue, dei cuori, e un tempo anche del trippino cotto e del polmone condito come la salsiccia, in più mettiamo del finocchio. Questa è la tradizionale salsiccia chiamata sambudello. Poi naturalmente la testa cotta, la testina, che noi chiamiamo soprassata o capaccia, che non è altro che la bollitura di cotenne, teste, e poi una volta che ha raggiunto la cottura viene semplicemente disossata, battuta a coltello, insaccata in un panno di juta o di cotone, strizzata forte dopo averla condita. Ogni casa addirittura ha una sua ricetta, ma senz'altro la noce moscata non può mancare, senz'altro il sale e il pepe, poi ognuno di noi può aggiungere una leggera freschezza, in questo caso la macelleria Fracassi mette le prezzemole del limone. Bene, io ringrazio Simone Fracassi e anche Lorenzo Massardi, abbiamo appunto scoperto che in Casentino esiste anche la produzione di vino. Io credevo che fosse l'unico produttore con la sua azienda Poggio Tondo, in realtà anche i frati, diciamo questo splendido posto dove i frati vestiti di bianco passeggiano, si vedono, dove c'è una splendida anche farmacia molto antica, di chiedere magari anche qualche bottiglia di vino. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio in Casentino. I luoghi così da visitare sono Stia, Prato Vecchio, Poppi, Bibbiena. Questi sono i centri, diciamo, più importanti, più abitati. Poi ci sono tantissimi piccoli borghi che sicuramente valgono la pena di una visita. Ho appena detto di andare a Camaldoli, di andare alla Verna, sicuramente sono posti bellissimi, anche posti da meditazione. Comunque il Casentino è, lo ripeto, una terra ancora rimasta come lo era tanti anni fa, quindi c'è un contatto con la natura veramente importante, molto diverso da altre parti, e quindi continuiamo questo viaggio anche per andare a scoprire le prelibatezze gastronomiche. Bene, ora andiamo in un'azienda agricola, l'azienda Goretti, e dove si produce dell'ottimo formaggio. Ma prima di passare così a spiegare come si produce in questa azienda il formaggio, io vorrei ricordare che recentemente, proprio nell'Aretino, è stato dato un nome particolare al pecorino di questa area per differenziarlo da altre aree. Si chiama abbucciato aretino. Allora io do un buongiorno a Lorenzo Cipriani. Buongiorno Cipriani. Buongiorno. Ecco, mi vuole dire perché avete così l'avete battezzato abbucciato? Si è chiamato abbucciato perché si forma una buccia gialla quando avviene la stagionatura, che nel nostro caso minimo è un mese. Comunque l'ideale sarebbe farlo stagionare più di due mesi per sentire veramente la qualità del formaggio. Una buccia gialla, e quindi è stato definito così, perché anche in passato, bene o male, si è sempre fatto questa tipologia di formaggio. E veniva chiamato anche in questo modo, una forma di formaggio abbucciato. Quindi era, diciamo, una forma dialettale che nel tempo è diventato, chiamiamolo, un marchio, perché ormai sì. Cioè, tutto viene definito in questa maniera. Quindi c'è una grande tradizione in Casentino sulla lavorazione del formaggio, specialmente del pecorino. Sì, sì, perché comunque sia anche anche dal secolo scorso che le pecore quassù ci venivano portate dalla Maremma nel periodo estivo, veniva fatta la transumanza perché quassù c'era Pascoli Verdi che era più insomma in altura, che insomma il pecorino è tanto tempo che si fa. Quindi era un tracciato di transumanza il Casentino? Sì, praticamente dalla Maremma i pastori in Maremma portavano le pecore su nel periodo estivo e poi d'inverno le riportavano in giù. Ecco, non c'è un'influenza sarda quindi, c'è un'influenza veramente toscana tra la Maremma e il Casentino? Sì, secondo me sì. Ho capito. Senta Cipriani, oltre l'abbucciato, quindi oltre il pecorino stagionato come diceva lei, ci sono altre tipologie di produzione importanti di formaggio nella vostra zona? Ma bene o male il formaggio proprio classico è questo abbucciato, però in genere per dire anch'io qui nella mia azienda produco formaggio più fresco, diciamo da vendere non proprio come marzolino, però con una ventina di giorni di stagionatura. Oppure io lo produco anche più stagionato, magari anche qualche forma di abbucciato invece di farlo stagionare con la crosta gialla e via, lo metto sotto cenere, sotto olio e cenere. Ecco, queste sono le produzioni diciamo più tipiche. E poi c'è il ravigiolo, che è un formaggio fresco, ecco. Che però non si può definire un pecorino quello è il ravigiolo. E devo dire che è il mio formaggio preferito, anche se non si può forse chiamare formaggio, perché sicuramente... Non lo so che diatriba c'è per il nome. Sì, per il nome secondo c'è. Secondo me è un formaggio vero e proprio. Sì, perché... No, non lo so. Perché è differente dalla ricotta, per questo forse si può definire formaggio. Sì, perché in pratica il ravigiolo è la cagliata. Certo. Tagliata, non spremuta e messa a scolare, diciamo. Per quanto riguarda noi qui nell'Alto Casentino, nella zona dell'Appennino, diciamo tosco-emiliano, veniva fatto e qualcuno lo fa tuttora, anch'io a volte, con le felci. Messo ecco, a scolare, esattamente, questo che le volevo chiedere. Viene servito con le felci perché prende quel profumo, no? Sì, prende un aroma, diciamo, di sottobosco, perché messo a contatto con la felce verde si sente ancora di più. Viene molto meglio che scolato nelle classiche cascine di plastica, come insomma ora prevede la legge, diciamo. Senta, il ravigiolo comunque dura pochissimo, bisogna mangiarlo nel giro di 3-4 giorni. Sì, è un formaggio che... cioè, a qualcuno piace anche... che prenda un po' di acido, diciamo, perché dopo 3-4 giorni in pratica prende leggermente di acido, ecco il problema qual è, per quello che si deve consumare un po' velocemente. Ecco, voglio ricordare che il ravigiolo nella zona romagnola che confina appunto con la Toscana, la zona di San Piero in Bagno, Bagno di Romagna, poi scendendo, sicuramente il ravigiolo viene usato anche per il ripieno dei capelletti, quindi diciamo che viene usato e quella punta di acidità sicuramente è molto, molto interessante. Lei ha parlato appunto di un altro prodotto, diciamo sotto cenere e olio, ci vuole spiegare cos'è questo prodotto? In pratica sarebbe una protezione che viene messa al formaggio, perché durante la stagionatura, magari ora forse con le celle moderne insomma è meno facile, però una volta come facevano, il formaggio veniva stagionato in cantina anche dai contadini e era un sistema per proteggerlo diciamo dall'attacco di agenti esterni, di batteri, certo. Di acari, e veniva rivestito diciamo con questa patina di olio e cenere, di modo che la crosta veniva tutta chiusa, capito? Quindi... all'esterno, e rimaneva completamente inglobato la forma sotto questa patina, capito? Lorenzo... è una protezione che comunque aiuta anche, cioè il formaggio secondo me stagionato sotto olio e cenere diventa, prende anche del sapore di olio e cenere. Quindi un sapore molto particolare. Rimanga con noi Cipriani, sentiamo anche un altro prodotto, perché appunto Casentino è un po' una scoperta di questi piccoli prodotti. Ebbene, in Casentino esiste anche lo zafferano, pensate un po', lo zafferano uno dei prodotti più cari che esistano, perché appunto non è che renda molto, ma con un stigma di zafferano forse si può fare un risotto, io l'ho detto troppo grosso, ma insomma con pochi stigmi si può fare, ma costa più al chilo del tartufo. Bene, ne parliamo con Alessandro Tellini. Buongiorno Tellini. Sì, buongiorno, salve. Volevo chiederle innanzitutto in quale zona del Casentino si produce zafferano e se questa produzione diciamo è recente o appunto è storica. Noi produciamo lo zafferano in un piccolo paese tra Chiusi della Verna e Rassina. Siamo un paese di 24 abitanti in una zona collinare. La nostra produzione principalmente ha origine da miei nonni, perché usavano lo zafferano, la spezia, come colorante per dare sapore a un dolce tipico casentinese che è la panina. Ah, poi dopo ci racconterà anche cos'è la panina, comunque vado avanti sullo zafferano. Sì, noi produciamo, ora abbiamo ripreso in mano questa coltivazione da 5-6 anni e ora lo stiamo commercializzando soprattutto per far conoscere questa spezia che da noi, ma principalmente anche in molte altre realtà, non è molto conosciuta. Cioè è conosciuta molto per il famoso risotto alla milanese, ma ha molti usi e altre qualità che non sono nascoste in questo senso. Senta, quanto va al grammo il zafferano? Noi dipende dalle qualità, comunque noi intorno ai 20 euro al grammo. Quindi ci sono diverse qualità di zafferano? Sì, ci sono diverse qualità. Noi facciamo un Crocus sativus, che è, diciamo, la bulbacea dello zafferano, è un'ottima qualità. E comunque sì, viene considerato l'oro rosso. Pensi che nell'antichità veniva usato anche come merce di scambio al posto delle monete. Certo, questo a San Gimignano è successo, quindi abbastanza vicino anche a voi, non vicinissimo ma vicino. Senta, lei ha parlato della panina, cos'è la panina? La panina è un tipico dolce casentinese, viene fatto nel periodo pasquale e è fatta di farina, uvetta, di maiale, l'olio, latte e lo zafferano, che per l'appunto dà questo colore inconfondibile a questo dolce. Dolce salato, perché al centeno c'è anche sale e pepe, è un po' una cosa particolare, tipica delle nostre parti, che veniva utilizzata panina perché ha la forma del pane e rimanda molto a questa forma, e lo zafferano dà questo colore giallo intenso e un sapore particolare. Senta, per Natale, cioè per le feste natalizie, per l'ultimo dell'anno, c'è un dolce particolare casentinese oppure anche voi vi rifate ai dolci tradizionali italiani? Sì, noi principalmente ci rifacciamo ai dolci, comunque per Natale o Capodanno di solito andiamo sempre sul panettone. Bene. Sì. Va bene, io ringrazio Alessandro Tellini, appunto abbiamo sentito parlare dello zafferano, vorrei tornare così da Lorenzo Cipriani poi per salutarlo. Cipriani, in questo periodo qual è il formaggio che lei consiglia di acquistare in Casentino? Anche perché non dimentichiamo che ci sono periodi e periodi in cui le pecore mangiano cose diverse, quindi qual è il periodo migliore per avere un abbucciato di grande qualità? Secondo me il periodo migliore è verso giugno-luglio, perché comunque le pecore hanno mangiato l'erba che nasce in primavera, che inizia a nascere a marzo-aprile. Cioè l'abbucciato, secondo me, che si trova di luglio, diciamo, è quello migliore. Ecco, voi, secondo il mio punto di vista. Nel vostro territorio ci sono pecore di razze particolari oppure di più varietà? No, in genere siamo orientati parecchio sulla razza sarda comunque ora ultimamente, perché cioè alla fine è quella che ti rende maggior latte, però ancora si trovano le Appennini, che si trovano, per dire, io ho anche diversi incroci che sono pecore che mi nascono qui fra le comisane. Ho capito. E comunque in genere si parte dalla comisana, sarda e appenninica in genere, poi c'è anche qualcuno che ha le Langhesi. Ho capito. Dov'è la sua azienda esattamente? Nel comune di Prato Vecchio, siamo a 600 metri sul livello del mare, vicino a Camaldoli, comunque in linea d'aria, benché Camaldoli sia nel comune di Poppi. Bene, dove c'è un ambiente veramente ancora molto molto naturale, dove l'inquinamento non è così vicino. Bene, io ringrazio Lorenzo Cipriani, ringrazio Alessandro Tellini. il gastronauta. Siamo sempre in viaggio in Casentino e stiamo scoprendo qua e là delle chicche, delle perle veramente interessanti. Abbiamo parlato di abbucciato, abbiamo parlato di zafferano, abbiamo parlato di farine e di castagne, abbiamo parlato addirittura anche di vino e di prosciutto del Casentino. Bene, ora parleremo anche di piatti, perché sicuramente esiste una cucina particolare, una cucina casentinese, diciamo, molto rustica, ma secondo me di grandissima qualità, insomma, una tradizione che si sta tramandando nel tempo. E allora di questo ne parliamo con il cuoco, lo chef del ristorante Tirabusciò di Bibbiena, Alberto Degli Innocenti. Buongiorno Degli Innocenti. Buongiorno signor Davide. Senta Alberto, ci vuole raccontare qualche piatto che è veramente vera tradizione del suo territorio? Vabbè, se si parla di piatto di tradizione non possiamo che parlare dei tortelli di patate. Ce le racconti un po', perché tutti sanno si parla dei tortelli di Mantova, dei tortelli di Mantova, zucca e d'altro. No, i tortelli di patate del Casentino, meglio fatti con la patata rossa di Cetica, è un piatto tradizionale del Casentino, un piatto molto semplice, molto povero, in cui quando non si trovava per fare i famosi ravioli, la ricotta e gli spinaci, la patata era sempre disponibile. È un piatto molto semplice, è un raviolo, diciamo così, e all'interno di questo raviolo sono delle patate lessate con la buccia, vanno lessate perché la patata rossa è indispensabile cucinarla con la buccia, in quanto ha delle proprietà proprio nella buccia stessa. È un piatto in cui si prendono le patate, si lessano, alle patate si aggiunge poi un po' di conserva di pomodoro, dell'aglio ben tritato, un po' di prezzemolo e dell'olio, e si mischia questo impasto di patate passate e si riempiono questi tortelli. Tortelli poi sono serviti come vogliamo, al burro e sale. Io al ristorante li servo con un ragù di maiale, di cintasenese o di grigio del Casentino. Cos'è il grigio del Casentino? Il grigio del Casentino è un maiale che hanno, diciamo così, riprodotto. Era un maiale antico che si trovava in Casentino, è un maiale caratteristico, è proprio grigio se uno lo vede, anche un po' simpatico, e diciamo alla stessa peculiarità della cinta, è un po' meno grasso e molto saporito. E questo maiale che è stato studiato, è stato riprodotto a questo momento incrociando il large white con la cinta senese o la mora romagnola. È indifferente che siano maschi di mora e femmine di large white o viceversa. Ecco, volevo chiederle, ha parlato appunto di questi tortelli, sì, di patate, che sono la mia passione, lo confesso, e lei ha parlato di ragù. Il vostro ragù è molto ricco. Sì, il nostro ragù è molto ricco, sì, è un ragù, ripeto, c'è cipolla, sedano, carota, fatti ben soffriggere, poi viene aggiunta la carne, viene aggiunta della polpa di pomodoro, è un ragù molto saporito. Ecco, Degli Innocenti, parliamo anche, c'è anche tradizione dell'acqua cotta, se non erro. Sì, l'acqua cotta di Moggiona, in questo caso. Moggiona cos'è? Moggiona è un paese vicino qui a Bibbiena, un paese che sta un po' in montagna, diciamo, in cui veniva da cui partiva la transumanza per andare nella Maremma, i nostri boscaioli. Infatti, come lei sa benissimo, troviamo l'acqua cotta casentinese o acqua cotta di Moggiona, poi c'è l'acqua cotta retina, l'acqua cotta senese e l'acqua cotta maremmana. Sono una diversa dall'altra? Come? Sono una diversa dall'altra, però l'ingrediente base è sempre quella, sono cipolle. L'acqua cotta di Moggiona è molto molto semplice, sono delle cipolle stufate, a cui poi viene aggiunto del pomodoro e della salsiccia precedentemente saltata in padella, viene fatta cuocere con del pomodoro e del brodo per una mezz'oretta e questa è l'acqua cotta. Viene messo in una teglia poi del pane abbrustolito, del formaggio, acqua cotta, pane, formaggio, facendo degli strati, e poi viene rimessa in forno a fare un po' di croccante. Questa è l'acqua cotta, un piatto molto semplice, molto povero, ma molto molto gustoso. Lei ha parlato di Moggiona e del Casentino, quindi diciamo c'è differenza tra l'acqua cotta di Moggiona e questa del casentinese? No, è la stessa, acqua cotta del Casentino o acqua cotta di Moggiona. Senta, viene chiamata così. Degli Innocenti, dal punto di vista, diciamo, dei dessert, dei dolci, c'è qualche cosa di tradizionale nel Casentino oppure? No, diciamo che dolci tradizionali non ce n'è, sì, a parte le torte di mele, quelle che facciamo classiche in casa, ma come poi dolci proprio della tradizione casentinese non ce n'è. E invece... A parte il baldino, sì, diciamo come dolce potrebbe essere fatto in inverno, viene fatto, noi lo chiamiamo baldino, sarebbe il castagliaccio. Ah, ecco, baldino. Farina, esatto, noi lo chiamiamo baldino. Farina di castagne diluita con acqua e olio, messa in forno con dei pinoli o delle noci, molto basso, e fatta cuocere. Ecco, c'è qualche altro piatto così particolare, qualche cosa di particolare che magari di cui non abbiamo parlato tra le ricette che lei ci ha dato, che gli viene in mente, del sempre casentinese da assaggiare appunto in questo territorio? In questo territorio possiamo assaggiare lo stufato alla casentinese, che è uno stufato di manzo, fatto sempre quello con mettendo del manzo in una casseruola con della farina e poi tirato su col brodo. È uno stufato molto semplice ma molto appetitoso. Poi piatti tipici, che sono tutti piatti porici, abbiamo un altro piatto, una zuppa di cipolle che proviene dall'antica zuppa fiorentina, o altrimenti un piatto molto molto tipico è l'infarinata. Ce la spiega? L'infarinata gliela spiego. L'infarinata è fatta, la base dell'infarinata è quello che si usa per fare la ribollita, quindi una minestra di verdure. Ho capito. Una minestra di verdure come si fa la ribollita, solo che una volta fatta viene messa nella polenta. Ah, addirittura, quindi... La polenta viene cotta con questo brodo, con queste verdure. Quindi un piatto sicuramente per uomini forti, perché sicuramente... Uomini dopo... forti, sì. Una volta fatto viene distesa in una teglia, viene fatta raffreddare e poi viene messa in forno, fatta a pezzetti a far grogiolare, diciamo. Quindi è un piatto, abbiamo polenta con una minestra di verdure. Senta, volevo chiederle anche questo. Voi, cioè in Casentino c'è una grande produzione di farina di castagne. Sì. Quindi, abbiamo anche un consorzio che sta nascendo. Sì, ne abbiamo parlato prima, abbiamo parlato proprio con il referente. Volevo chiedere, siccome diciamo che c'è questa produzione ottimale della farina di castagne, oltre al baldino, si fa anche della pasta, ad esempio si fanno gnocchi di farina di castagne? Io al mio ristorante non li faccio, però vengono fatti degli gnocchi, vengono fatti dei ravioli di farina di castagne, ma in particolar modo viene usata per i dolci. Ecco, allora... La polenta dolce proprio. Ah, la polenta dolce. Quindi... La polenta dolce che noi in Casentino la mangiamo con la ricotta. Benissimo, quindi anche questo è un piatto... Un bel abbinamento, una bella polenta dolce fatta con farina di castagna e servita con della ricotta. Diciamo che anche il baldino può essere servito con anche sopra... Anche il baldino si può essere servito con la ricotta perché diciamo va benissimo. Ricotta di pecora. Ricotta di pecora, sì, assolutamente. Senta, io voglio tornare con lei un po' alla patata rossa di Cetica, perché io volevo anche così dare un'informazione. Cetica è un piccolo villaggio. Un piccolissimo villaggio. Mi sembra che faccia 400 abitanti. Sì, più o meno. Sì. Bene, negli ultimi anni, diciamo, che questa tradizione era stata continuata di questa patata rossa molto particolare, però non se ne produceva grande quantità, erano pochissimi che la producevano. Bene, questa patata rossa ha risvegliato un po' questo paese, perché si è diffusa la produzione appunto di questa patata molto, molto prelibata, poi ora chiederò a degli innocenti quali qualità, e devo dire che è nato un consorzio e si è sviluppato in tutto il paese un po', questa patata è diventata un po' l'emblema, un po' di una riscossa, chiamiamola così, di una riscossa sociale di tutto questo borgo. Esattamente. Bene, allora voglio tornare a Alberto degli Innocenti per chiedere, ma cosa c'ha di particolare questa patata rossa? Solo il colore oppure è veramente diversa dalle altre patate? È diversa, infatti il colore che è dato da una sostanza caratteristica dei vegetali, no? La xantofille, che nelle altre patate rosse, ovvero da solamente nella buccia, questa patata, queste venature rosse ce l'ha anche all'interno e quindi contiene degli antociani, fa bene a radicali liberi, diciamo. Quindi anche questo... gustarla fa bene anche alla salute. Ecco, ma al di là di questo, diciamo, e effetto... La peculiarità, e poi è una patata ottima per fare gnocchi, per fare tortelli, una patata molto soda. È perfetta. È questo che io le volevo chiedere, l'utilizzo di questa patata in cucina sicuramente non è da purè o da patate fritte? Non è da patate fritte, sì, però con la buccia. Quindi da cuocere con la buccia? A fritte e al forno va cotta con la buccia, perché è una buccia molto molto fine. Quindi una volta ben lavata è gustosissima mangiarla con la buccia, mentre è buonissima per gli gnocchi, non è da purè. Ecco, non è da purè. È buona per gnocchi in particolar modo e anche per i tortelli. Ecco, gli gnocchi voi con cosa li condite? Con questo ragù forte di carne? Io gli gnocchi li condisco con un ragù di chianina. Ah, ecco, quindi abbiamo due prodotti, sì, sicuramente, sì, del... Io li faccio con un ragù di maiale, che è un più forte, mentre gli gnocchi io li condisco con un ragù di chianina mischiato, quando c'è il momento buono, con dei funghi porcini. Bene, io volevo ricordare anche un altro prodotto, e magari poi chiedo a degli innocenti se è d'accordo con me, che in tutto il Casentino, a differenza del resto d'Italia, si trova una qualità del pane ottima. Cioè, ci sono molti forni a legna sparsi appunto per questo territorio, ma anche in Val Tiberina succede la stessa cosa, quindi c'è una tradizione del pane, di un pane di ottima qualità, ben cotto, e come dicevo, il punto di forni a legna. Concorda con me degli innocenti su questa mia osservazione? Grandissimi forni, uno che è a strada in Casentino, che fa del pane meraviglioso con legna, e un altro forno che è in... su Accorezzo, non a caso fanno anche una sagra, la sagra del pane. Ecco, quindi diciamo che anche il pane è una delle basi. Il pane è una delle basi solide del Casentino. Beh, devo dire che appunto questi prodotti sono tipici di un territorio che è rimasto così integro e che ancora continua nella tradizione, ma soprattutto nella salvaguardia di alcuni piatti, di alcuni prodotti dell'alimentazione tradizionale. Grazie Alberto degli Innocenti, chef del ristorante Tirabuscio di Bibbiena. Bene, cari gastronauti, io vi saluto, vi invito ancora una volta a fare un viaggio in Casentino sui posti che via via abbiamo delineato ed assaggiare i prodotti di cui abbiamo ampiamente parlato. Bene, il vostro gastronauta vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 10 per la replica di questa trasmissione e alle 12:15 sempre di domenica con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno alle 18 con la pillola. Buona giornata dal vostro gastronauta.